Il punto di Stefano Folli. È sempre più chiaro che la campagna elettorale riguarderà soprattutto il Senato. Alla Camera il premio di maggioranza molto alto favorisce Bersani, a meno di clamorose sorprese, ma è al Senato, dove il risultato è sul filo, che si decidono gli equilibri della prossima legislatura. Ed è lì che la lista Monti gioca la sua vera partita. Se la coalizione di centrosinistra vince anche a Palazzo Madama, i seguaci dell'agenda Monti avranno una molto limitata capacità di condizionamento. In caso contrario si apre la strada a una complessa trattativa post-elettorale fra i partiti. Il leader dell'UDC Casini lo ha detto in maniera esplicita: Bersani, per essere premier, dovrà affermarsi anche a Palazzo Madama. E questo vuol dire una campagna in cui i centristi pro Monti dovranno farsi largo, e non sarà facile, sconfiggendo Berlusconi in primo luogo e poi prendendo le distanze dalla sinistra. Le regole sono queste e la corsa comincia.